Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascalzone, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. Fosse vero, caro David, fosse vero, andasse davvero così, ci sarebbe da fare un applauso a chi l'ha deciso. Cosa leggo dalle agenzie di stampa, dai siti, dai giornali, eccetera, eccetera. Cosa? Opera di Roma, due punti, licenziati, orchestra e coro. Beh, sarebbe fantastico, andrebbero presi a calci nel culo, ovviamente, oltre che licenziati, a calci nel culo. Io penso anche in processione, no? Una processione fuori dall'Opera di Roma, questi orchestrali che fanno gli affari loro e non fanno funzionare l'Opera di Roma. Eppure vedrete che non andrà così, leggerete i grandi titoloni, no? Opera di Roma, licenziati, orchestra e coro dopo scioperi e agitazioni che hanno distrutto l'Opera di Roma. Vedrete che alla fine non andrà così, perché in Italia c'è sempre un giudice alla fine. Questi sono dipendenti pubblici, è vero che il lavoro forse verrà esternalizzato. Beh, questo ha deciso oggi. Sì, vabbè, questo ha deciso, poi bisogna vedere, ha deciso. Poi in Italia non è che quando uno decide qualcosa, quella cosa avviene. In Italia è già successo altre volte. Beh, questo, sì. Quindi, insomma. Come sei ottimista. 182 lavoratori, amico mio. Come? 100... E chi se ne frega se non fanno una mazza? Devi stare molto molto calmo però. 100, io voglio dire solo questo. E poi mandami a quel allora... paese e fai quello che e ti che pare. Vuol dire? Scusa, non ho capito. Dai, buono, 5 che vuol dire 182 lavoratori? Solo una parola, 182. E allora, che vuol dire? Che devi conservare a tutti i costi il tuo lavoro se non fai una mazza? Fai quello che ti pare, benissimo. 182 lavori e chi se ne frega? E chi se ne frega? E chi se ne frega? Tu devi mettere sempre il carico da 90. Prenderli a calci perché? Ma è metaforico, naturalmente. Ah, è metaforico. Certo, è metaforico. Senti il numero uno invece, Marchionne che risponde, il grande capo della Fiat che risponde in questo modo. Questo è il monumento del giorno, bisogna farlo a Marchionne. Definito Sola, cioè uno che ha salvato un'azienda. Salvato un'azienda morta, rendendola una multinazionale. Signor Marchionne, qui andrebbe fatto un monumento. Perché sì, certo, ha fatto i cazzi suoi, non c'è dubbio. Cioè, ha fatto gli affari della Fiat. Andrebbe fatto un monumento e c'è il signor Della Valle, tutti i braccialetti qua, lo signor Della Valle, tutti braccialettato Della Valle, sempre in televisione. Perché, tu, scusa, perché Marchionne non va mai in televisione? Me lo spieghi, invece Della Valle dalla mattina alla sera in televisione? Perché? Ma non ci sarà un motivo, no? Perché Della Valle dalla mattina alla sera in tutti i talk. Ma c'è una grandissima azienda che Della Valle, ma cosa ma io non credo, Della Valle è dalla mattina alla sera in televisione. Perché Marchionne non va mai? E la sua azienda, perché Marchionne non va mai? È migliore, sai perché è migliore? Perché lui gli utili li ha ridistribuiti agli operai, dandogli anche gli aumenti in busta. Mamma mia. Capito? Allora, l'amichetto di Marchionne. No, Cruciani, Marchionne. C'è cioè, no, l'amichetto. L'amichetto di quello, penso di che quell'uomo sia un... che paga i soldi in un altro, ma paga le tasse in un altro paese, va in giro col maglioncino anche a luglio. Senti, cazzo, che... basta, non si va in giro a luglio col maglione, hai capito? Senti che ha detto, senti a che ha detto Marchionne, stai in zitto, giro. Va. Stai ma zitto. Dai. Almeno non vai in televisione a dire cazzate. A luglio col maglione va in giro. Mi ha accusato di essere una suola insieme, non è vero? No? Sola. Ma non credo che importi. Io, guardi, se l'avesse detto qualcuno, no, ma se l'avesse detto qualunque altro lo posso pure capire, ma uno scapparo che ti fa è un complimento, fa parte di una parte integrale della scarpa. Detto da uno scarparo, beh, meraviglioso. Meraviglioso! Di cattivo gusto, proprio. Adoro quest'uomo. A me piace Della Valle, invece. Adoro, beh, non lo mettevo in dubbio. Neanch'io mettevo in dubbio il contrario, diciamo. Mi piace Della Valle perché ha dato i soldi in più in busta ma paga. Ma chi se ne frega di questa roba qua? Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Io sono dalla parte di Depardieu che va a pagare le tasse dove si pagano meno le tasse. Così, dove si pagano meno? Come lui, come Depardieu. Pardiena. Ubriaco, amico di Putin. No, no, come te, ma, amico di Putin può darsi, ma Grasso sì. Grasso no. Ubriaco e amico di no, Putin. No, Grasso te lo posso assicurare, no. Sei Grasso. Seguito dal fisco. No, no, Grasso no, Grasso no. Sei seguito dal fisco. No, ma quello no, perché? Seguito dal fisco, io pago tutto, pago tutto. Adesso? No, ma adesso uno deve andare a pagare le tasse dove è più conveniente. E poi andrai, benissimo, andrai nel Liechtenstein a fare la zanzara, nel Liechtenstein. Vediamo cosa ti dicono. Vai, vai nel Liechtenstein. Senti, senti questa, se questo è un sindaco De Magistris, ormai si è messo a fare il clown per strada con le iene, meraviglioso. È una roba pazzesca De Magistris, eh. Tu pensa solamente qualche tempo fa, c'è uno colpito da una condanna, uno come De Magistris, doveva scappare via dal comune di Napoli a gambe levate. Invece no, sta lì a fare gli show per strada, lo show con le iene. Dai, che vergogna, su, che vergogna. Signor sindaco, noi il saccoppello gliel'abbiamo regalato. Pronto per l'operatività. Però voglio vedere se davvero lei è capace di fare il sindaco. Io ho fatto da giovane campeggio, quindi... Ho deciso di preparare una casetta per dormire in strada, come il sindaco De Magistris farà se venisse sospeso. Vabbè. Mi dà una mano? No, però mi deve dare una mano a sistemarla. Dovremmo fare due paretine. Guarda. Così. Ecco. La vedo abbastanza pratico. Ho dormito anche per strada, eh. Come ha dormito per strada? E quando ho fatto campeggio, dai 16 ai 20 anni. Ah, beh, allora, sai. Quando ho fatto campeggio, ragazzi, siamo veramente alla farsa, dai. Siamo veramente alla farsa, alla farsa. Oh, il direttore del Sole 24 Ore, nonché di Radio 24, Roberto Napoletano, si trova a Capri e ha definito, non si sa per quale motivo, davanti all'uditorio di Capri, la zanzara una fascia di trasgressione. Bene, ottimo. Ottimo, direi. No, beh, un altro politico, ragazzi, un altro politico. Grazie. La signora Iole Santelli, senti qua. Iole Santelli, credo che sia ancora Forza Italia, o sbaglio? Iole Santelli, Forza una Italia. Una fascia di trasgressione. Buono. Vabbè, adesso andiamo avanti. No, mandalo in loop tutta la puntata. Allora, no, aspetta. L'audio? Aspetta, lo avremo l'audio. Aspetta un secondo. Fermo, bloccati lì, fermi tutti. Iole Santelli, Forza Italia, molto vicino un tempo a Cesare Previti, se non sbaglio. Signora Santelli vuole denunciare e portare in tribunale le iene, in particolare la signora Nobile, perché secondo la Santelli avrebbe tagliato un servizio male davanti alla Camera, facendola passare come una di quelle che non sa che cos'è l'ISIS. La cosa è clamorosa, perché no, mi hanno... l'acronimo ISIS, cioè le parole cose. Sì, cos'è l'acronimo? Cos'è. Sì, ho capito. Beh, no, ma qui c'è proprio una. Non, proprio non sa nulla. Senti qua, senti. Cos'è quest'ISIS? Che vuol dire che cos'è quest'ISIS? Che cos'è? ISIS? E che cos'è il progetto ISIS? Il progetto sul terrorismo internazionale, il controllo del terrorismo internazionale, la verifica sul ISIS, che cos'è? Internazionale. Scusi, la verifica sul il controllo da parte di Obama nei confronti del terrorismo internazionale? No. Cioè che cos'è ISIS? Esatto, sì, si sente sempre parlare di questo ISIS, gli italiani non capiscono spesso che cos'è questo ISIS. Come non sanno cos'è il terrorismo internazionale gli italiani? Sì, ecco, quindi l'ISIS è terrorismo internazionale. L'ISIS è il progetto sul terrorismo internazionale. Ragazzi, ma qui non c'è niente, non è che è stato tagliato, è così. Cioè, secondo la signora Santelli, l'ISIS è il terrorismo il progetto sul terrorismo internazionale. Dai, su, ma di che stiamo parlando, dai? Non c'è nulla. Eppure questa qua vuole fare querela alle iene. Cioè, vuole portare in tribunale la signora Nobile, che giustamente la incalzava dicendo, scusi, allora è il progetto sul terrorismo internazionale degli Stati Uniti? E lei diceva, sì, certo. Ma di che stiamo parlando? Sono i terroristi, è il contrario. Anzi, lo Stato. Vabbè, comunque ignoranti siamo anche noi, eh. Non è che non siamo ignoranti, però. Per carità. Mario Adinolfi è con noi, buonasera Mario. Ale, buonasera. Ale, grandissimo, grande prossimamente. Grande Marione. Come combatte come un leone su tutti i fronti, mi piacciono le persone che combattono. Fra poco, a gennaio, forse, se trova i quattrini, uscirà un giornale che si chiama La Croce, come in Francia, La Croix. La Croix. A proposito di ISIS, di ISIS, che vuole spaccare. Perché non lo chiami? No. Prendersi le nostre donne, come si diceva. Avvicina la bocca al microfono, se non si sente niente. ISIS diceva che voleva spaccare le nostre croci e prendersi le nostre donne. A proposito di ISIS, sì, Parenzo, che stai dicendo? No, potrebbe chiamarlo direttamente Inoc Signo Vinces, capito? Così è il sottotitolo, lo mettiamo sotto. Sì, ragazzi, però parlate italiano qui, perché ci stanno per strada tassisti, camionisti. Inoc Signo Vinces, parlate italiano, ho capito. Ma sei tu che sei un somaro, i tassisti sanno cosa vuol dire Inoc Signo Vinces. Ma no, perché sono ignoranti. ignoranti, gente normale che vuole sapere, non vuole sentire parlare il latino qui alle 18.43, abbi pazienza, dai, su, vabbè, io volevo capire una cosa da Maria Di Nolfi, ma hai sentito della sentenza o comunque dell'ipotesi di accordo di patteggiamento per quelli che sono andati con le baby prostitute un anno, aspetta, un anno e 1.000 euro per alcuni di questi qua, un anno e 1.000 euro. Ho sentito e ne ho scritto, insomma, mi pare qualcosa di incredibile. So che tu sei un po' più libertario. No, ferma. Che si può fare? Dite direttamente si può fare, perché un anno vuol dire niente, come sai, perché c'è la condizionale sospensione. Non andranno in carcere. Insomma, tutto questo succede. Insomma, tu vai con una di 14 anni, sì, una figlia adolescente, francamente mi sembra incredibile che si possa avere una pena del genere proposta dai PM, attenzione. Questa è la proposta della pubblica. Però scusa, pare che convenga anche all'accusa, perché forse è il massimo che si può ottenere, evidentemente, o no? Non è il massimo che si può ottenere, perché la pena edittale è da 1 a 6 anni quindi volendo la richiesta almeno di PM poteva essere sicuramente. Ma non ho capito, secondo te c'è una copertura per questi che vanno a prostitute minorenni? C'è una copertura, c'è una sottovalutazione clamorosa di un fatto che è gravissimo. Perché noi ne abbiamo parlato sfottendo, ridendo, no, questo è un fatto incredibile che è avvenuto nella nostra città, almeno nella mia città, che mi pare essere anche la tua, sì, in un luogo dove ci sono i soldi, tanti, perché i Parioli, come sappiamo, sono il quartiere dei ricchi, sì, dove si sono presi i ragazzini di 14 anni, le mamme le mandavano a prostituirsi. Questa non è una storia di costume banale, è una storia terrificante, una storia assolutamente no, d'accordo, però tu che faresti con questi qua? Cioè, il massimo edittale, non accetterei il patteggiamento dal punto di vista giurisprudenziale, ti posso fare tante scelte, eh? Io su un caso del genere do il massimo della pena e non accetto il patteggiamento, perché questa è una cosa, secondo me, di livello clamorosamente grave. Se tu devi andare con una di 14 anni, qui stiamo parlando di una ragazzina di 14 anni coinvolta in questa storia, la cosa è sostanzialmente lo puoi fare, paga una multa che è poco più della tariffa di quello che pagavi alla ragazza, sì. Cioè, oggettivamente siamo fuori dal mondo. Le persone non sono cose, caro Giuseppe Cruciani, caro David Parenzo, e se uno mette dentro questo concetto, capisce. Cioè, secondo te, per esempio, il marito della Mussolini dovrebbe andare in galera, secondo te? Ma io dico che chi ha fatto questo tipo di comportamenti deve avere sicuramente una pena congrua. Un anno con la condizionale e 1.000 euro non è una pena congrua, di questo penso. Aprite le linee e fate sapere gli italiani che ne pensano. No, guardami, un italiano che dice no, è giusto che uno va con una 14enne sfruttata in termini prostitutivi e che venga sostanzialmente lasciata andare quasi con l'applauso. Ho capito, ma allora che c'è dietro? Uno dice, siccome tutti quanti la pensano così e anch'io la penso così, cioè se uno va con una prostituta minorenne, se è consapevole ovviamente di andare con una prostituta minorenne, consapevolemente va con una prostituta minorenne e viene quattordicenne, al limite con la pedofilia lì, capisci? Sei al limite con allora la che cosa c'è dietro? Una copertura? Una copertura di questi qua? Cioè che cosa c'è? Non lo so, non conosco chi ha proposto queste pene, posso però dire che è sicuramente una clamorosa sottovalutazione di un caso gravissimo, che tra l'altro si è ripetuto, c'è stata la storia del fotografo che faceva le foto alle ragazzine, anche lì, insomma, a Roma, nella nostra città, i comportamenti di questo genere, in realtà, ieri c'era un servizio alle Iene, ho visto. Alcuni identico, dove su 10 clienti, 7 non si sono fatti problemi a andare con una di 15 anni, che gli diceva proprio faccio il terzo anno di scuola superiore, cioè è impressionante, ragazzi, se uno non dice questa cosa è male, no, ma questo non c'è dubbio, dire questa cosa è male, se è male è sanzionabile, se è sanzionabile la sanzione deve essere vera, perché la sanzione è dammi 1.000 euro su questo, guarda. Torniamo subito perché c'è da parlare di Agnese Renzi, Francesca Pascale, Vladimir Luxuria. In the daytime, girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time, all day and all of the night, all day and all of the night. La cosa che mi ha fatto ridere oggi però, David, è un tweet di Laura Boldrini, presidente della Camera, purtroppo, dico io. Senti, 8 ore fa, esattamente 8 ore fa, dunque in mattinata, diciamo, come ogni giorno io a Montecitorio, c'è una sua foto mentre sale le scale della camera, come ogni giorno io a Montecitorio senza ascensore e oggi anche per promuovere lo sport e l'attività motoria. Ti rendi conto o no? Amo, c'è la Boldrini che sale le scale della camera verso l'ufficio di presidenza, fermatela, e fa questo tweet dicendo come ogni giorno io a Montecitorio senza ascensore e oggi anche per promuovere lo sport e l'attività motoria. Ma che è l'Istituto Luce? Cos'è? Fermatela! Allora, caro Mario, Vladimir Luxuria ha detto che Agnese Renzi è una cattolica osservante, che ha la famiglia piena di preti, di cattolici, eccetera, eccetera, e dunque sarebbe il vero ostacolo all'approvazione di una legge sul matrimonio gay all'interno della famiglia Renzi, dunque il vero ostacolo per il governo. L'ha detto, oltre che in un'intervista al Fatto, anche qui da noi, dicendo che c'è anche un fratello prete, se non sbaglio. Che ne pensi di questa sortita di Vladimir Luxuria? Ha detto che è una bigotta, mi pare, da sì, qualche parte, proprio una cosa bigotta, una cattolica sì, bigotta, poi ha detto anche che ha un fratello prete, eccetera, eccetera. Sta povera Agnese Renzi, che non ha detto mai mezza parola sulle questioni. Questo è vero, questo è vero. Non ha mai detto niente. Che si deve smazzare una famiglia un po' particolare ormai con tre figli, sì, con una fatica incredibile, deve essere paragonata a Francesca Pascale, che con tutto rispetto che insomma, c'ha? È imparagonabile. Perché è imparagonabile? Scusa, che ha fatto? Allora, possiamo cominciare a dire in questo paese che tra una donna con tre figli che fa una fatica boia e una precaria della scuola e una che invece ha scelto da 28 anni di fidanzarsi col 79enne, forse non per ragioni completamente legate all'amore, ci sta una differenza di valore, si può dire. Ma perché differenza di valore? È uguale per me. Allora, per me c'è una differenza di valore fra una madre che si smazza tre figli e una che si piatta col cappello al 79enne di turno. C'è una differenza di valore. No, ma che di valore? Ognuno fa le sue scelte, Mario. Non è che ognuno fa le sue scelte. Ci sono scelte e scelte. Allora dillo chiaramente, la Pascale sfrutta Berlusconi, sta lì perché... Ma non lo so se lo sfrutta, Berlusconi sarà contento di essere sfruttato. Voglio dire che tra Agnese Renzi e Francesca Pascale c'è una differenza di valore e dunque... Ma perché uno può essere quello che gli pare, ma la differenza, cioè uno può essere pure assassino, ma c'è una differenza di valore. Cioè questa cosa che tutto è irrilevante, che la notte è la notte in cui tutte le vacche sono nere, ve la dovete togliere dalla testa. Non vabbè, è ma per me tra la Pascale e Agnese Renzi non c'è differenza. Ma come non c'è? C'è come? Ma perché la differenza? Comunque, che me frega se quella si smazza tre figli, ognuno fa le sue scelte. E comunque, questa di Luxuria è miracolosa. L'attacco alla povera no, scusami, Marione. Aspetta. E l'esaltazione di Francesca Pascale che dice cavolate su cose di cui non capisce niente. Perché fondamentalmente non ne capisce niente. Perché non capisce niente? Ma dai, insomma, di che parla? Ma veramente, allora, chiamiamo Silvio Berlusconi, avete il numero, chiamate Silvio Berlusconi, chiedeteli, ma sei a favore del matrimonio? Lui dice, la Pascale dice di sì. Vediamo, chiedeteglielo, so, fate, no, Luxuria, per te, che cos'è un trans per te? Ma io voglio bene, Luxuria è fantastico, mi dà l'occasione di fare un sacco di chiacchierate interessanti come questa. Io credo sia una persona in grande confusione. Mi dispiace. No, ma un trans è una persona normale? Prendere... Ma cioè, tutti siamo persone normali. E che ne so, per esempio, la Biancofiore dice che non è normale. Però io ho visto Luxuria prendere la comunione dal cardinale Bagnasco e poi accusare Agnese Renzi di essere cattolica praticante. Allora, mi spiegate questa roba qua? Cioè, quando c'è un fotografo... Lei dice che è una cattolica estremista, cioè una di quelle che non vuole... Ma che vuol dire estremista? Tu stai preso la comunione da Angelo Bagnasco con la faccia contrita e dicendo sono tornata cattolica dando certe interviste e poi Agnese Renzi invece è cattolica praticante e è usato come insulto. Ma io voglio dire, ma veramente siamo nella confusione totale. Scusami un attimo. Possiamo rimetterle dritte le cose? Ma per te Luxuria è una di quelle che sfrutta il fatto di essere trans, sfrutta dal punto di vista commerciale? Una diciamo. Marea di gente ha fatto carriera sul proprio orientamento sessuale. Lasciate perdere una povera mamma di famiglia che fa la precaria, perché tutto il che è matrimonio, al matrimonio con l'uomo più potente d'Italia fa la precaria alla scuola. Cioè, ci sarà una differenza, ci sarà anche qui. Ma ci che sarà differenza una c'è? Perché c'è, perché c'è una differenza? Ma uno fa la precaria nella scuola e l'altra fa la transgender, la show woman, non so come dirti. Beh, tu preferisci, per me è uguale. Se mia moglie fa la transgender o se mia moglie fa la mamma dei miei figli, preferisco che faccia la mamma. Scusa, ma se tu scoprissi che tuo figlio è lesbica, che cosa fai? Ci parlo, che ci faccio? Che faccio? Che ne so, è una tragedia familiare? Che è ne so? Un problema, sicuramente è un problema. Ma come è un problema? Perché è un problema? È un problema, perché vorrei ragionare, voglio dire dei figli non comprati, Giuseppe, lo sai? Dei figli? Non comprati, cioè vorrei dei figli nati. Ma che c'entra comprati? Col fatto che... C'entra. No, col fatto che è lesbica, scusa, se è lesbica, che c'entra comprati? I miei nipotini li vorrei, come dire, questa è mia figlia anche grandicella ormai. Li vorrei, cioè vorresti i nipotini non comprati? Ho capito, ma sarebbe un problema il fatto che se è lesbica sarebbe un problema, dai, questo no, Mario, un problema il fatto. Io voglio parlarci, certo, ci voglio parlare. Vabbè, cioè, per convincerla. Per convincerla. Parlarci è normale, parlarci è normale, è normale parlare. Non mi fai dire la cavolata che vado là e devo convincerla di diventare quella a cui piace. No, la cavolata no, però hai detto. Non riesco a dire cavolate. Però il dato fondamentale è che se è lesbica, se ti dico non è un problema, ti dico una bugia. Ti dico la verità. Mi metterei a parlarci. Grazie, ciao, ciao. Che palle la Boldrini, diciamolo francamente, che non possiamo fare neanche. Oh, diciamo, che palle la Boldrini. Oscar del giorno, sentite questa, questo attacco forsennato di Oscar Giannino a chi dice che qualcosa il governo sta facendo per chiudere tutte le aziende pubbliche e locali che proliferano di politici, sono piene così zeppe di politici italiani che scaldano la poltrona. Il problema è che per dire si chiudono 2000 partecipate, come in teoria dovevano chiudere entro il dicembre di quest'anno, e lei lo sa benissimo che c'è una legge vigente ancora che in teoria lo dice e che non rispetteremo, significa dire ad alcune migliaia di amministratori dei partiti che dalla fine dell'anno loro il gettone di presenza non ce l'hanno più, ed è questo che non riuscite a fare. Oh. Beh, grandissimo, contro la De Micheli, Partito Democratico. E la realtà è che le cose vere non si fanno, le cose concrete, cioè dire chiudere tutte le aziende municipalizzate, no, chiudere no ovviamente, e togliere dai consigli di amministrazione tutti i politici, e privatizzarle, eccetera eccetera. Però il numero uno è sempre Marchionne, lo scarparo della valle è sempre il numero uno, sempre con la statua da accarezzare, da lucidare. Marchionne su della valle di nuovo. Mi ha accusato di essere una suola insieme, non è vero? No? Sola. Ma non credo che importi. Io, guardi, se l'avesse detto qualcuno, no, ma se l'avesse detto qualunque altro lo posso pure capire, ma uno scarparo che ti fa. È un complimento, fa parte di una parte integrante integrale del suo, della scarpa. Sentite questa roba qui invece, meno paga le tasse in Italia della sì, Valle. Sì, sì, vabbè, l'hai sì, già sì. Detto, chi se ne frega che paga le tasse in Italia? Quello è il capo di una multinazionale, può pagare le tasse dove cazzo vuole. Bravo, allora, Bertinotti, non è giusto che i miei, così come fra poco chiude l'ufficio di Bertinotti alla Camera come ex presidente della Camera, ed è passato fin troppo tempo, a spese nostre, lui si preoccupa per quelli che lavoravano per lui, che fino adesso sono stati pagati ovviamente dalla Camera per fare sostanzialmente i funzionari della Camera a spese nostre per seguire Bertinotti. Non è giusto che i miei collaboratori siano senza lavoro. Ma scusa Bertinotti, tutti quelli che rimangono senza lavoro perché chiudono piccole imprese, imprese di 7 persone, imprese di 10 persone, imprese di 20 persone, che rimangono senza nemmeno copertura da parte dello Stato, perché non te ne sei mai occupato, amico mio? E ti preoccupi dei tuoi, che già non ci devono essere prima dal 2006 in poi, perché è assurdo che un ex presidente della Camera mantenga un ufficio. Adesso si preoccupa perché perderanno il lavoro, capito? Delle persone che hanno lavorato da più di 10 anni alla Camera dei Deputati in diverse attività, compresa l'ultima di collaborare con il mio ufficio, si trovano in quella condizione, essendo precedentemente garantiti per più di 10 anni di lavoro, una volta a vita, a trovarsi senza lavoro. Chiedo, è ragionevole che delle persone non abbiano neanche le protezioni che hanno tutti gli altri lavoratori, cassa integrazione, mobilità, eccetera? Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Dalla BCE 1.000 miliardi in due anni per dare ossigeno alla ripresa, ma mercati giù in tutta Europa. Milano perde quasi il 4%. Migliaia in corteo a Napoli per contestare il vertice della Banca Centrale Europea e protestare contro l'austerity. Momenti di tensione quando ai fumogeni la polizia ha risposto con gli idranti. Renzi alla Merkel, l'Italia rispetta i vincoli ma nessuno tratti gli altri paesi come studenti. Io sto con la Francia, la riforma del lavoro non è una mezza riforma. Forza Italia, Berlusconi attacca Fitto, i tuoi distinguo ci danneggiano, fatti un tuo partito. Romani, nessun soccorso a Renzi sul lavoro, mai più alleanze con Alfano. A Napoli primo giorno da sindaco sospeso per De Magistris che non vuole accettare la sentenza e attacca le istituzioni. L'Italia è una democrazia malata. Il governatore di Hong Kong non si dimette ma apre al dialogo con gli studenti. Il centro città sempre paralizzato dalla protesta per la democrazia. E a Lampedusa i sopravvissuti della strage di migranti del 3 ottobre scorso aprono Sabir, festival per una giornata della memoria, mentre in Libia c'è un nuovo naufragio con 10 morti. Andiamo con le telefonate, eh? Francesco da Genova, buonasera Francesco. Buonasera, senta, io volevo soltanto parlare dell'intervista che c'è stato prima. A un certo punto questo signore ha detto che lui non vuole nipotini comprati, ha detto. Sì, sì, sì. Ha sì. usato il termine comprati dicendo invece, intendendo i ragazzi adottati. Io sono sì. padre di un ragazzo adottato. Usare terminologia di quel tipo offende. Io bravo, mi sento come lui se mi probabilmente avessero dato si... un pugno nello stomaco. Però scusi Francesco, probabilmente Adinolfi si riferiva ai casi di eterologa, di i figli surrogati. Guardi, eccetera. I figli, i bambini non si comprano, non si ma io sono d'accordo usare con lei. Questa terminologia e credo e spero che voi ve ne siate accorti e voi non dovete permettere questa terminologia, scusi Accusciani. Va bene, grazie, rispetto, grazie. Eh? Ho capito, Paolo da Bari, dai Paolo. Paolo Accusciani, buonasera. Vai Paolo, dimmi. Niente, volevo dirti, come mai secondo te il giornalismo italiano è uno dei più scarsi al mondo? Ma non lo so, lo dimostra, io Paolo. No, fa finire. Ma chi l'ha detto che è uno dei più scarsi al mondo? Dai, dimostra che un ragazzino di 14 sì. anni mette in difficoltà un politico, ciò che non avete fatto voi in tante trasmissioni. Ma perché secondo lei il ragazzino di 14 anni ha messo in difficoltà Nardella che sta tremando di paura, signor Nardella, no, sindaco di Firenze? L'ha svergognato assolutamente. Su che cosa diventare? L'ha svergognato? Sul patto del Nazareno? Su che cosa l'ha svergognato? Vergognato. Cioè dicendo quello che dicono tutti, ovviamente colpisce che sia un ragazzino di 14 anni, cioè ha detto che no, fanno il patto, fanno un patto col condannato. Ha fatto delle domande. Sì, ma non è un problema. Invece voi fate le domande di faccia, cioè vabbè. Già che tutti i tortori. A lei piace, a lei piace il ragazzino 14enne che le ha cantate e ha picchiato duro contro Nardella. Il messaggio era un altro, voluto dire è che se un ragazzino di 14 anni fa delle domande importanti... Sì, secondo lei importanti? Secondo fatto... me, no, importanti, dirette, perché voi quando fate... cioè, non voi, io non parlo di te, parlo del giornalismo in generale. Vabbè, ho capito, allora... Quando vedi talk show fanno delle domandine, sai, tipo quelle... cioè, non è che vanno dirette, tipo magari... arriva la Moretti, gli dice che fine hanno fatto. Vabbè, secondo lei il ragazzino 14enne è molto efficace, abbiamo capito. Grazie, no, Giovanni. Siete voi che siete incapaci. Noi siamo incapaci, va bene, noi siamo incapaci, benissimo. Cercheremo di migliorare, caro amico, cercheremo di migliorare. Giovanni da Ferrara. Come va? Oh, Giovanni, caro Giovanni, ma lei quanti cazzo di telefonini ha, Giovanni? No, ma perché non mi ricordo una cosa. Dimmi. Sto mangiando la cotoletta alla milanese in un posto meraviglioso. Sì. Allora io volevo, ma non mi ricordo più chi è quel coglione che mi ha dato dell'assassino e quindi ha dato Red Ronnie l'altra settimana. Quello, sì. lì, quello lì adesso so che una volta era un po' in televisione, credo che sia scomparso. Questo cretino che va denunciato a sua volta mi, ma ha, dato perché denunciato? Mi ha dato dell'assassino sì. perché mangio la carne. Quindi ha dato dell'assassino a tutti coloro che mangiano anche a me, la carne. Sì, anche a me, sì. Allora, se uno per strada ti dà dell'assassino, tu cosa fai? Lo denunci? Secondo me dovremmo tutti quelli che mangiamo carne, cioè il 90% italiani, denunciare questo deficiente. Che è un deficiente, che ha dato degli assassini a coloro che mangiano la carne. Allora, se io scopro che questo qui, come diavolo si chiama? Red Ronnie, questo qua uccide una zanzara perché lo sta per mordere. è un assassino. Se calpesta una formica e la uccide, è un assassino. Sì, questo, certo, certo. Questo è un cretino. Vabbè, cioè, io, ma io, no, ma la domanda è sempre la solita: ma perché date spazio a questi cretini? Ma che dobbiamo fare? Scusa, ma non devono parlare. Ma come non devono parlare? Dai, Giovanni, ma ti scusi, ma ti ricordi una volta ci fu una polemica con quel regista che disse che i bambini bisogna fare sesso ai suoi figli a 10 anni? Sì. Cane, come si chiamava? Come no? Quell'altro deficiente, come si chiamava? Quello napoletano, sì, non mi ricordo lì. Quello, sì, vabbè, dai. Quello che era deputato di Alleanza Nazionale. Squitieri, che era deputato di Alleanza Nazionale, sì, che diceva che i bambini bisogna fargli fare sesso a 10 anni, 12 anni, queste cose. Ecco, non bisogna dare la parola ai deficienti. Vabbè, su, cioè, stai dicendo che Red Ronnie adesso chiamiamo Red Ronnie. Sì, è vero che fate parlare anche Parenzo, quindi va bene, ci sta tutto, però quando uno arriva a dire ma lei anche sta parlando, allora no, non è vero, perché allora quando uno dice è un assassino che mangia la carne, capiamo dove vuole arrivare, cioè è un cretino, non si può dire una vabbè, cosa allora, di Giovanni, cosa fa nella vita oltre a telefonare alla Zanzara? Nella vita hai una vita, c'hai una famiglia, ma degli ma che ti frega, qui stiamo parlando del pensiero, cosa delle idee, allora bisogna smetterla di pensare, bisogna smetterla di pensare, sono uno che sta mangiando la cotoletta milanese in questo momento e qualcuno oh, Parenzo, intanto ma che ne sai, Vabbè, io ho dovuto difendere in radio tutti coloro che mangiano la carne perché un cretino gli ha dato degli assassini, hai capito, oh, Parenzo? Poi? Oh, questa è una, sulla vostra trasmissione ci sono mille cose da dire. Dimmi no, un'altra. Poi risento ancora che Parenzo dà la multa anche ai nani che vogliono, che fanno sesso con un altro modo. La prostituta ha anche una funzione sociale, questo che Parenzo non capisce, questo vuol dare multe. Certo, non c'è dubbio. Dare multe, perché secondo lui uno dovrebbe controllare prima se c'è il racket. Allora se io vado in un bar e bevo il caffè, ma scopro che c'è il racket che gli chiede la tangente, non devo andare a bere il caffè. Ma che cazzo dici, Parenzo? Buon lavoro, mi raccomando, mantenete sempre il vostro frufru, Motor running, head out on the highway, looking for adventure, in whatever comes our way. Fermi tutti! Persone che sono in macchina con i bambini, cosa devono fare, Parenzo, a questo punto? Perché, come ha detto il nostro grande capo, siamo una fascia trasgressiva. Dunque tutto è permesso da questo momento in poi. Non che prima fosse diversa la cosa, ma comunque, insomma, cosa devono fare i bambini? Cosa devono fare i genitori che hanno in macchina i bambini in questo momento? Cari amici, voi che siete in macchina dovete prendere il vostro piccolo enfant, fermarvi improvvisamente, frenare proprio bruscamente, prendere il bambino, abbassare il finestrino dietro e sedere il bambino tra il finestrino e la portiera in modo che sporga bene con la testa, legarlo ma poco con la cintura di sicurezza, mettere la quarta e via a 220 all'ora. Rocco Siffredi, il professore di urologia Rocco Siffredi, ci dice cosa bisogna fare per evitare, signori miei, gente che siete all'ascolto, soprattutto uomini ovviamente che siete all'ascolto, uomini magari over 40, forse anche over 50, bisogna fare una sola cosa per evitare di prendere il tumore alla prostata. Grande Grillo, totalmente d'accordo con lui, bisogna svuotarla tutti i giorni, elimini la possibilità di avere un tumore alla prostata. Lui ha fatto un grande studio proprio sul tumore alla prostata e la cosa più importante è svuotarla se si può tutti i giorni. Diciamo che se trombi la svuoti meglio, se ti fai le pippe la svuoti a metà, però va bene uguale. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure. Empty the pipes in americano vuol dire che si svuota da molto dentro con tanta pressione quando ti fai una bella chiavata, se invece ti fai una pippa ti esce fuori da senza pressione. Le lezioni di Rocco Siffredi. Allora, eravamo con il mitologico Giovanni da Ferrara, che per la terza volta chiama la Zanzara, però, come al solito, quattro cellulari. Giovanni, non capito, a parte Red Ronnie, hai già detto su Red Ronnie le peggio cose. No, è che poi devo parlare piano perché si sono incazzati al ristorante perché dicono che ho strillato un po'. Ho scoperto che non vi ascolta più nessuno. Cioè, in che senso? Non vi, cioè, voi probabilmente siamo in 3 o 4 a sentirvi. Perché? Ma perché nessuno sapeva di quelli al ristorante, quando ha sentito questa roba che questo deficiente, come cazzo si chiama questo qua? Schifredi, quello che ha detto dell'assassino, come si chiama? Chi? Ma Red Ronnie. Quando quello lì ha detto che sono assassini quelli che mangiano la carne, e io l'ho detto forte al ristorante, mi hanno chiesto, ma chi è che ha detto, siccome tutti stavano mangiando la carne, adesso mi sono spostato perché sennò disturbo, ma chi è che ha detto una roba del genere? Ha detto alla zanzara Red Ronnie, non l'aveva sentito nessuno, quindi non vi ascolta più nessuno. Ma dai, erano per i coglioni. Vi parlate fra di voi, anche perché siete un sacco di cazzate, quindi vi parlate fra di voi. Vabbè, d'accordo Giovanni, questo non lo decidi tu. Ma io voglio sapere una cosa, ma a Parenzo che gli frega se una vita? E poi scusami, mangia la cottolina alle 7:30, ma tu sei sarai vabbè, perché a Milano, a Ferrara dove si mangia anche alle 7:30? Al nord si mangia alle 7:30, più ma verso sud. Ma ti mangi la minestrina perché non hai neanche i denti, quale bistecca? Alle 7:30 mangia mia nonna. Vedi Parenzo, allora una delle abilità che poi non sono delle abilità del giornalista, quando non ha argomenti, quando io dico che uno è un cretino perché dice che sono assassini quelli che mangiano la carne, e lei non ha argomenti per contrastare, allora dice cosa fai nella vita, ma che cazzo te ne frega cosa faccio io nella vita, pensa a fare il tuo mestiere e pensa a non far parlare questi cretini che dicono queste stronzate come che sono assassini che mangiano la carne. Poi detto questo, ma come poi? No, c'è un'altra cosa che voleva dire, ha detto. Lo tratti come fosse Galli della Loggia. Se fanno fare giornalista a Parenzo, io sono molto meglio di Galli della Loggia. Se Parenzo fa. Vabbè, Giovanni, poi andiamo avanti, dai. Che c'è da dire anche? Che hai da dire? Siccome hai chiamato per la terza volta in 15 giorni, ci sarà un motivo a parte Red Ronnie? Ci sarà qualche altro grillo per la testa? No, è che non voto più Forza Italia. Perché tu votavi Forza Italia? Io votavo Forza Italia prima. Sì, e perché non voti Forza Italia? È perché è diventato un partito di finocchi. Ma dai, basta. Cioè, il mito di noi di Forza Italia era Berlusconi che si trombava tutte queste belle ragazze. Cioè il nostro sogno, il nostro ideale. Cosa vorresti essere nella vita? Vorrei essere Berlusconi. Anche Sgarbi, vorrei essere anche Sgarbi. Sì, beh, no? Certo. Però a differenza di Sgarbi, Berlusconi sono solo belle ragazze di solito. Quindi sì. Vorrei essere poi pieno di soldi poi. Cioè vorrei essere Berlusconi, tutte queste ragazze, 12-13 ragazze nella villa, fantastico. Beh, adesso che è cambiato? Scusa, beh, sta con una sola. Adesso intanto sta con una sola, e poi sta con una che va a Gay Pride, che sostiene Pride, come diavolo si pronuncia, che sostiene che sostiene Luxuria, che probabilmente quindi probabilmente è lesbica, non c'è dubbio che sarà lesbica. Ma che ne sai che è lesbica? Non si possono dire queste cose. Ma perché vuole legalizzare queste cose, questi rapporti omosessuali assolutamente vergognosi, ridicoli, contro natura. Ora Forza Italia, che rappresentava invece un partito serio di persone di sani principi, adesso sta diventando un partito di fanno la campagna elettorale col cane, il cagnolino, cioè il partito dal cane del cazzo è diventato, quindi è diventato il partito dai finocchi e degli animalisti col cagnolino, ma vaffanculo, cagnolino e finocchi, ma non è più un partito, infatti non lo vedo più nessuno, tu capisci che hanno perso i voti, perché hanno fatto la campagna elettorale sul cagnolino e sui finocchi? Se non è il partito dei finocchi questo, non è il partito dei cagnolini. Ma che cazzo ce ne frega del cagnolino e dei finocchi e dei gay e delle lesbiche? Cazzo, un partito deve preoccuparsi di governare il paese, non di queste cose qua. Invece Forza Italia adesso è così, cioè viene rappresentata dalla Premier Femme, come diavolo si dice, con la scale, sì, la Premier Femme, sì, la Premier Femme che va alle feste dei gay, i gay pride, come no, gay village, andata dal gay village, quelle cose lì dove vanno i finocchi, insomma, questa cosa. Vanno i finocchi, vanno anche le persone normali, sono stato pure io là. Sulla normale, sul fatto che tu sia normale c'è tutto da discutere intanto. Ma io sono normalissimo. No, non credo, perché non credo tu sia normalissimo, no, perché sei diventato l'icona gay, quindi uno che diventa l'icona gay, normalissimo. Vabbè, ragione. Vabbè, allora poi basta, è finito questo intervento di stasera? Poi volevo dire questo, che l'invidia è una brutta cosa, l'invidia. Perché? Ma perché è bellissima questa cosa dell'invidia politica. Cioè, i leghisti erano talmente invidiosi della come si chiamava la ministra, la Kenge? La Kenge, sì. Che hanno nominato un dirigente loro nero. Negro, io dico, Per invidia. Come per invidia? Anche loro vogliono far vedere che non sono razzisti. Allora, per far vedere che non sei razzista, io sono padano, sono di Ferrara, quindi sono assolutamente padano, sono rappresentato da un nero adesso, ma vaffanculo. Ma che vuol dire? Intanto hanno un leader lì, come si chiama, Salvini, che si è preoccupato solo di assumere la moglie in regione. Vabbè, quella è un'altra storia. No, è una storia gravissima questa, Che c'entra con i uobi? Là, quello che è stato il nuovo responsabile di immigrazione della Lega, i uobi. Ma perché non l'hanno messo perché è bravo, perché è capace, perché è popolare? È vero, Io non l'hanno messo perché è nero. Negro. Se uno, qualche lei, cioè sono più razzisti loro, questo è vero razzismo. Sì, sì, no, questo, questo. Uno per il colore della pelle, non per la capacità o per la bravura. Vabbè, Giovanni, ti devo salutare. Ciao, bravo. Ciao, caro. Ciao, ciao. Vai, ciao, ciao, ciao. Ciao. Massimiliano da Milano, buonasera. Sì, buonasera, buonasera. Vai, vai, dimmi, dimmi. Sì, sì, stai cazzeggiando da oltre un'ora. Sì, cazzeggiando anche, può essere, sì. Allora qual è il problema? Sì, sì, no, è che stai volutamente, come dire, saltando la notizia del giorno. Qual è la notizia del giorno? Ce ne sono tante di notizie del giorno, anche i grandi litigi dentro Forza Italia, dove sì. Berlusconi sta per mandare a fare in culo Fitto, addirittura. Sì. Dentro però, Forza Italia, oggi c'è stata una specie di resa dei conti, delle seconde tra Fitto e Berlusconi. Fitto si è alzato per dire sbagliata la politica, l'accordo con Renzi, eccetera. Berlusconi si è spazientito e ha detto: io quasi quasi chiamo i probiviri, no? Cioè sostanzialmente ti caccio come fece Confini. Vabbè, allora Massimiliano, qual è invece secondo te la notizia del giorno? La signora Selvaggia si annoia. E tu? Stai parlando. Non so di chi parli, però, lo sai? Lo so, infatti, io immagino. Immaginavo. Ma chi? Di chi? Anche. Chi è? No, chi? Una la signora che hai detto? Selvaggia. Mi pare si chiami Selvaggia. Non so di chi stai parlando, non la conosco. Anch'io penso che tu non la conosca. Ma, no, ma non la conosco proprio, ti assicuro. Io non so di chi stai parlando. Perfetto, ma io ho pensato che il tuo silenzio fosse una, come dire, cortesia nei confronti della signora. No, ma io non so, io veramente non so di chi stai parlando. Io non conosco nessuno che si chiami con questo nome qua, ti assicuro. Non la conosco. Quindi, non conosco. Certo. E dunque non leggo, non conoscendo, non leggo, leggo delle frasi dette da qualcuno che non conosco, francamente non conosco. Millanta, amici. Ma io non so se millanta o non millanta, non so di chi stai parlando, perché io qualcuno che si chiama SL mi sembra l'iniziale, no? Sì, pare di sì, pare di sì. Non la conosco, mi dispiace. Questo mi spiace perché ne aveva fatto una descrizione. So che qualcuno parla di me, sì, so che qualcuno parla di me, ma parlano tanti di me, per cui per fortuna o per sfortuna parlano tanti di me, per cui francamente non la conosco, le posso assicurare, sì. Non la conosco. E questo mi da una parte però mi rende anche lieto perché ero preoccupato, un idolo. No, un idolo di che cosa? Perché quale sarebbe l'argomento in discussione? All'interno di quella famosa intervista di cui parlavo. Sì, non so, non conosco questa intervista, non conosco la persona, però l'argomento in discussione che mi riguarda quale sarebbe? Ma noia in ambito intimo, queste cose qua. Ah, noia in ambito sessuale. Guardi, io mi annoio tantissimo da questo punto di vista, per cui faccia lei, cioè, mi annoio spesso da quel punto di vista. Spesso certo mi annoio. E certo che di Parenzo nessuno ha mai detto questo è un altro elemento. Spesso mi annoio, per cui. Questo che deve fare? È un problema? No, se non è un problema per me, è un problema per lei? No, ero dispiaciuto. Ma perché dispiaciuto? Io non sono affatto dispiaciuto. Ci tengo al mio direttorino. Io non sono affatto dispiaciuto. Ma io non sono. Io spesso mi annoio. Allora, se non è un problema per me, perché dovrebbe essere per gli altri un problema? Non capisco. No, ma infatti io ho chiamato per sincerarmi. Ah, bene. Però io veramente non so di che parla. Ma veramente non so di che parla, poi, ti assicuro. Posso provare a mandargliela via email. No, ma com'è che si chiama il nome? Se? Selvaggia, mi pare. Ah, di cognome? Di cognome? Dicono Lucarelli, però anche qua. No, io conosco solamente i due fratelli, uno del Livorno, l'altro giocava nel Parma, credo. Lei conosce quello che scrive anche, no? Credo che ci sia anche uno. Non leggo, leggo pochissimi giornali. Dove scrive? Dove scrive? Niente, Selvaggio. Su che quotidiano scrive? Settimanale, quotidiano? Libero, credo, mi pare. Ha una rubrica su. Non conosco, mi dispiace, non so. Uso dei social, Facebook in particolare. Non so, non la conosci. Mi dispiace, non conosco. Peccato perché è anche carina, dicono. Sì? Sì, ma, come dire, gusti. Auguri, auguri. Anche lei. Auguri, arrivederci. Ma siete una vecchia coppia, due gay che si continuano a insultare uno con l'altro. Sì, qui abbiamo un eroe dei nostri tempi, eh. Per me è diventato un eroe assoluto. Poi vediamo adesso quello che dice. Ma un eroe assoluto quando Mario Draghi. Quando ieri ha parlato dei funzionari e dei dipendenti della Camera, i quali i quali sono stati graziati vergognosamente mentre cercano di far passare questa cosa che i dipendenti della Camera si sono diminuiti lo stipendio, che era vergognoso, vergognoso rispetto agli italiani normali e soprattutto rispetto agli altri impiegati pubblici, perché non si capisce perché un dipendente del comune di Vattelapesca, un dipendente del comune di Frosinone, dico io per esempio Frosinone, dato che l'altro giorno parlavamo di Ciociaria, debba essere pagato di meno di un dipendente della Camera dei Deputati o di un dipendente del Senato. Non si capisce per quale motivo al mondo, solo in un'Italia di ingiustizie, di caste, di gente diversa pur facendo lo stesso lavoro, diversamente pagata pur facendo lo stesso lavoro, questo è consentito. È con noi Andrea Vecchio, buonasera deputato. Buonasera, buonasera. Come andiamo? Giuseppe, come sta? Bene, tu piacere come stai? Piacere di risentirla. Diamoci del tu, che dici Andrea? Certamente, o no? Un grande piacere, ho ascoltato poco fa il tuo dibattito. Quale dibattito? Con quell'altro. Ah, l'altro, sì. Sono gli scotti, lo scotto che si paga alla pubblicità, alla ma che vuoi fare? Ci sono persone che parlano. Tu sei una persona nota, quindi. Ma sì, ma ci sono persone che parlano della mia vita privata. Ma tu l'hai fatto da prima. No, io l'ho fatto. Allora, se vogliamo precisare questa cosa l'hai qua. Fatto tu per allora primo. Stai attento, stai tranquillo perché su questa cosa non mi fotti. Io ho ma parlato. Ma sei tu che hai messo tutto in piazza. Sì, per stai primo, tranquillo. Amico mio. No, io non ho messo nulla in piazza. Ti diverti a te. Di io che ho parlato, io non mi sto arrabbiando, io sono tranquillissimo. Guarda, non sono affatto. Hai detto che non la conosci. No, ma non la conosco, non la conosco. Ma la conosci e come? Non la conosco. Non la conosco, ma non so di chi state parlando. Allora, hai primo. Detto che la tua allora, prima ci sono omonimie esistono in Italia, parliamo no? Due minuti di cose serie. Ci sono omonimie in Italia. Primo, io ho parlato in termini generali della mia vita sessuale. Primo, non ho fatto nessun riferimento puntuale a persone. Beh, ci sono altre persone che non conosco che hanno quell'iniziale SL che io non conosco che dicono ridicolo, dai. No, non è ridicolo, è la realtà. Ma fa ridere, ci sono, conosce, lo sa, ci sono persone che invece hanno parlato di alcune cose, hanno fatto capire. Ma l'hai parlato anche tu in quell'intervista da va bene, non hai capito un cazzo, va bene. Come, come al solito. Come al solito non hai capito niente di quello ma che voglio tu dire. Ma sei tu che fai così. Senti, non ho fatto nessun riferimento alle persone, capito? Ma come no? No, nessun riferimento. Guarda. Vabbè, vai a casa, va, musica, l'acquisto. Musica, vai a casa, vattene. L'acquisto. Musica, vattene. Te ne puoi andare, vai. Allora, vecchio, non ti arrabbiare. No, però, no, ma la gente quando non capisce, la gente purtroppo di fronte alla realtà, quando non capisce deve essere presa a calci nel sedere, perché sennò non è possibile. Vedi, in questo paese, sì, ma non credo solo in Italia, sì, conquistare uno spazio al telefono parlando con una radio e in una televisione, sì, ti fa diventare subito importante agli, sì, occhi di te stesso, sì, naturalmente. E quindi gonfi il petto, allarghi le penne, sì, e diventi subito. No, ma questo è vero, questo è vero, questo è vero. Ma io non voglio parlare di questa cosa, infatti, non no, voglio no, assolutamente no, parlare. C'è cioè, quell'ascoltatore che è intervenuto, ma io non conosco, non so di cosa si sta parlando. Allora, innanzitutto, caro Andrea, dammi una definizione secondo te, dei funzionari e dei dipendenti della Camera dei Deputati. Sono persone diligenti, ossequiose, educate, sì, che stanno tutte al loro posto, sì, non disturbano nessuno, sì, percepiscono uno stipendio che io ritengo che sia totalmente fuori dalla norma, sì, e io... No, però scusami, tu l'hai definiti anche... No, no, ci stavo arrivando, io nel commentare... quel discorso che tu sai che c'è stata una riunione del comitato di presidenza della Camera avanti ieri, un mio collega D'Ambroso, che è il diciamo questore della Camera, non ha voluto accettare, si è astenuto da questa votazione. Vabbè. Perché queste presunte pseudo riduzioni che loro pensavano di fare erano di circa 97.000 euro, sì, in 4 anni. Sì. Il costo della Camera esattamente non lo so, ma 100 milioni più, 100 milioni meno e 2 miliardi all'anno. Sì. Per 4 anni fanno 8 miliardi. Sì. 97.000 euro. Sì. Non mi so fare il conto quanto 0, di percentuale di risparmio. Di risparmio. Cioè, tu stai dicendo che alla fine la roba della Boldrini, l'annuncio trionfalistico, è una roba finta. Certo, assolutamente finta. Però vedi. Scusa, ma la Boldrini come la giudichi tu? Io la Boldrini la giudico una bella donna. c'ha una bella falcata, sì, una camminata importante, eretta sul busto, uno sguardo penetrante, un sorriso ammaliante, sì, una bella pettinatura. Ma la stai dipingendo come una specie di modella, scusami, no? Come una cioè, farebbe meglio, tu dici, a fare le sfilate piuttosto che fare il presidente della Camera? Io non sono all'altezza di giudicare le qualità del presidente della Camera. Però non ti sembra all'altezza, diciamo la verità, non ti sembra all'altezza. Però lei è seduta nello scranno più alto, quindi all'altezza c'è. Ah, da quel punto di vista sì, da quel punto di vista. Però scusa, ecco, ma quando tu vedi un funzionario della Camera, perché tu li hai definiti vestiti in livrea come dei camerieri, grottescamente remissivi e servizievoli. Io faccio quest'altra considerazione. Oggi l'abbigliamento è estremamente casual. Di chi, scusa? Di tutta, della società. Sì, nostra. Sì. Tu una volta in banca i funzionari avevano tutti la giacca e la cravatta. Adesso sono in jeans, in maniche di camicia, alcuni in t-shirt, altri t-shirt, con t-shirt. Io ho le scuole basse, sai. Insomma, come, che scuole? Sei imprenditore, eccetera, ma che scuola hai fatto tu? Le scuole molto basse. Che hai fatto? Un diploma di scuola media superiore, fatto alle serali. La scuola media superiore, la scuola fatto media. Alle serali, sai. Io sono un poco così, dan. E quindi dici t-shirt, com'è che hai detto? T-shirt. Come si dice? T-shirt. Poi non è a me che devi chiederlo, amico mio. La nostra intervista è utile, imparo qualcosa. Allora, un attimo solo, abbiamo la pubblicità. Da imparare nella vita. Torniamo con Andrea Vecchio, Scelta Civica, che ha definito i dipendenti della Camera ridicolmente vestiti in livrea come dei camerieri, grottescamente remissivi e servizievoli con i cosiddetti onorevoli. Dipendenti della Camera sono assolutamente improduttivi. Pensa che simpatia che si è attirato, mitico. Scusami, è un paraculo. Caro Parenzo, nostri amici in comune, mi suggeriscono una strategia che finora è stata abbastanza lontana da me, non perché non voglia mettere i cazzi miei in piazza, l'ho fatto, però lasciamo perdere questa polemica tra di noi, sennò veramente ti salto al collo. Però non, siccome non ti voglio saltare non al collo, non hai ragione, hai torto marcio, ma lasciamo perdere. È vero, la realtà è questa, mi danno. Ho constatato una cosa sbagliata, perché tu fai confusione, ma lasciamo perdere. Allora parliamo di altro. X fa un'intervista e dice delle cose. O smentisce quello che ha detto. No, ma non c'entra niente questo qua, Ognuno si farà idea di quello che hai detto. Sì, va bene, appunto. Non è che c'è da pentirsi. Senti, amico mio, mai ho sbagliato. Ma non hai capito, tu non è, no, come al solito non sai e ma non io sapendo. Ma tutto quello che ho letto come tutti. Vabbè. Comunque un'amica comune mi suggerisce una strategia, che è quello di mettere in piazza tutto, Cioè di dire, rispondere, far diventare questa roba uno show pazzesco. Può darsi che lo faccia, non lo so. Ma perché poi? Cioè, per rispondere sembra che sono stato punto sul vivo su una roba. Ma io non avrei fatto un'intervista di quel tipo. Ma a te che cazzo te ne frega se faccio un'intervista o no? Lascia perdere. Ma lascia sto perdere. Commentando una cosa pubblica, ecco, non privata. No. Sto commentando quello Vabbè, che ma tu hai lascia detto. Perdere. Tu sei David Parenzo, con un altro. Esatto, io sono Giuseppe Luciani, per fortuna, è un'altra cosa. Esatto. Allora, primo. Io non l'avrei mai fatto. Vabbè, ma lascia perdere. Ho detto delle cose che non si riferivano a singole persone, chiaramente. Ma quello c'è dell'intervista. Sì, vabbè, lascia perdere. Allora, ho detto una cosa, altre persone hanno messo in mezzo, hanno fatto battute su di me o hanno lasciato intendere delle cose. Ora io, secondo una vulgata, dovrei rispondere dicendo no, non è vero, oppure sì, è vero, oppure no, ma lei lo fa in questo modo, io lo faccio in un altro, lei faceva questo, io facevo quest'altro. Ma ditemi, cioè, volete questo? Rispondetemi, volete questo? Via Twitter, via radio, volete questo? Cioè, volete che io racconti nei dettagli quello che è successo? Siccome una persona mi spinge a farlo? Cioè, volete questa roba qua? Cioè, volete che io, con una persona che ha come iniziali SL, racconti, siccome lei l'ha fatto e non io, racconti dettagli particolari, eccetera? Cioè, volete davvero questo in diretta? Dai, su! It's a long way to the top if you want. bisogna ignorare queste cose ogni tanto, ignorare le cazzate, cioè ignorare le porcherie, no? Cioè le porcherie che dicono su di te, le cazzate che dicono su di te, bisogna ignorarle, anche le battute, perché era una battuta, bisogna ignorare ogni tanto, ignorare, questo è quello che penso io. Però magari voi mi convincete di un'altra cosa, voi che siete all'ascolto e seguite questo programma, mi conoscete, pensate un'altra cosa e mi volete convincere di altro, cercate di convincermi che invece è il caso, ma non la buttate sullo showbiz, sul coso, perché se avessi voluto farlo l'avrei già fatto. È con noi, l'abbiamo un po' perso per strada, Andrea Vecchio, deputato di Scelta Civica, che mi sa che non esiste più Scelta Civica, noi la chiamiamo sempre Sciolta Civica. No, lei mi prende il copyright, perché adesso non so se si dice bene copyright, ma io il secondo giorno di apertura della Camera nel 2013, sì, ho detto mi pare che siamo in sciolta civica, quindi l'ho detto io. Vabbè, dunque lei a che appartiene adesso? A se stesso? Cioè è un deputato fantasma? Ho sempre appartenuto a me stesso. Sono sempre appartenuto, sono sempre appartenuto, vabbè, a me, vede come sono importanti. L'italiano è claudicante, cioè l'italiano è claudicante. Ma io sbaglio sempre i congiuntivi. Ma è un disastro. Io vengo dalla Sicilia. Vabbè, che c'entra? Non è che in Sicilia che c'entra? Sciascia veniva dalla Sicilia. In Sicilia che succede? Sicilia, nel dialetto siciliano, sì, il congiuntivo è il condizionale. Quindi noi quando ci abituiamo a parlare in italiano lo facciamo con grande sforzo, con grande difficoltà, perché ci viene naturale utilizzare il condizionale al posto del congiuntivo, perché nella lingua classica siciliana il congiuntivo, vabbè, è questa condizionale. È una scusa, però onorevole Vecchio, su, questa una è una scusa. Scusa è una scusa un po' per lei, se lei sbaglia i condizionali perché le viene così, perché le viene così, e la perché l'abitudine è quella, è la giustificazione. Io da bambino, vabbè, ma sti dipendenti della Camera sono davvero improduttivi? Questi dipendenti funzionali della Camera, diciamo la realtà, lei li assumerebbe nella sua azienda? Assolutamente no. Mai? Mai. Mai. Ma perché che c'hanno? Proprio non fanno un cazzo. Lo dica come te lo diciamo noi, non fanno un cazzo. Le dico perché. Sì. I dipendenti della Camera sono loro stessi a farsi il primo male. Perché ci saranno delle persone produttive, ci saranno delle persone in gambissima, ci saranno delle persone che lavorano da mane a sera, ma non si vedono, perché nella grande confusione, nella grande folla, per la maggior parte tu li incontri ai corridoi, a passeggiare, appoggiati ad uno spigolo di porta, a discutere tra loro, a giocare col telefonino, a guardare il monitor della televisione, a oziare. In tutti i corridoi ci sono folle di commessi. E quando lei sa meglio di me, ma ce ne vorrebbero il 50% in meno, ce ne vorrebbero, Andrea? Ma io penso l'80% in meno. L'80% in meno, Io penso, sono presuntuoso io nel fare giusto, bisogna essere presuntuosi. Sono molto presuntuoso, però io dico una cosa: se tu per fare un lavoro per il quale sono sufficienti due persone, ce ne metti quattro, quelle quattro persone non fanno il lavoro di due. Ah, non c'è dubbio. Si ostacolano a vicenda e poi ognuno dice ma lo fa lui, ma lo fa lui, ce lo scarica a barile. Ma vi rendete conto che queste persone qua, io ho grande rispetto per il lavoro delle persone, assolutamente, però il problema è un altro. Però vedi, ascolta, ci sono 15 sigle sindacali alla Camera e al Senato, 23. E quella mattina quando c'è stata la riunione del comitato di presidenza della Camera, non c'era nessuno delle sigle sindacali autonome a difendere i lavoratori, c'è andato uno della CGIL, come al solito, vabbè, uno della CGIL perché spera di fare proseliti. E il sindacato, però, scusi Vecchio, lo vogliamo dire una volta per tutte che questa roba qui della differenza di stipendi tra i funzionari della Camera e del Senato e i dipendenti statali è una vergogna assoluta che va a cambiare, e che la Boldrini non ha fatto una benamata mazza, mi scusi l'espressione. Io sono d'accordissimo con te, ma non solo, io ti dico di più. In Italia non è stato mai possibile nella pubblica amministrazione introdurre dei corretti criteri di valutazione della produttività. Sì, vabbè, purtroppo. Nelle aziende private, sì. nella tua radio, sì. se tu non fai un certo audience, sì. l'ho detto giusto. Ah, quello è sicuro, mi mandano a fare in culo, su questo non c'è l'ho dubbio. L'ho detto giusto audience? Audience sì, questa volta sì. Audience. Ovvio. Si sta acculturando un po', eh. Sì, mi mandano via, sì, questo è vero. Se tu non fai un certo audience ti mandano Senta, via. Senta, caro vecchio, ma lo sa che dei suoi colleghi dell'ex perché sciolta... lo chiami vecchio? No, perché si chiama vecchio di cognome. Si chiama, ma tu non hai capito che si chiama vecchio, ma tu stai dormendo. Cioè... No, ma tra l'altro sono vecchio, perché sono... ieri il nano, ieri chiamavi quello nano, poi negro, adesso vecchio, dico, vuoi vedere che invece si chiama vecchio. No, si chiama vecchio, Andrea vecchio, ma tu non sai niente, mamma niente, mia. Niente. Allora, i suoi ex colleghi Sberna, Gigli, vogliono insieme a Parenzo, vogliono multare quelli che vanno a prostitute. Vogliono multare quelli che vanno a prossimo. Ora lei che è il più anziano, il decano ma della camera. Ma poveracci, sono in buona fede, sono brave persone, guarda. Come poveracci però, scusi, Sberna. Poveracci nel senso buono del termine, nel senso migliore del termine, sì. nel senso di brava gente, sì, capisce? Sì. Nel senso di bravissima gente. Scusi, ma lei è mai andata a prostitute nella sua vita? Mai. Mai, e perché mai? Perché ti spiego, sono con la stessa donna da 48 anni. Mamma mia, che noia, vecchio, che noia, come fa? Assolutamente no. Ma come ha fatto a resistere 48 anni senza mai cornificare, senza un corno? Con la fantasia che c'ho. Cioè? Io sono una persona che usa molto la fantasia. Anche nel sesso? Dappertutto. Dappertutto, per cui lei e sua moglie siete sempre andati d'amore e d'accordo da questo punto di vista. Se tu poi attraverso un SMS mi mandi il tuo indirizzo postale privato, sì. ti mando un paio di libri che ho scritto io. Su che? Sul sesso? No. Sulla fantasia? Sulla vita. Sulla vita. Scusi, caro vecchio, ma lei ancora a quanti anni ha, scusi? 75. A 75 ancora con sua moglie, scusi se mi faccio questi affari suoi, però sa. Capita, beh, ma un applauso, vecchio a 75 anni, beh, oh, ragazzi, con la stessa moglie a 75 anni, capita, quanto? Una volta al mese? Sì, si può dire una volta al mese, vecchio. Ma in un mese ci sono 4 settimane. Una volta, quanto siamo? Più o meno, sua moglie quanti anni ha? Mia moglie ha 67 anni. 75-67, secondo me siamo sulle due volte al mese. Beh, a volte sì, a volte no. Applausi a vecchio. Vabbè, ma questi suoi colleghi della Camera sono dei come li definiamo questi qua che vogliono punire i clienti delle prostitute? Bravissime persone. Vabbè, ma quello. Splendide persone, ma è un poco sprovvedute, un poco ci sono quelle persone che hanno degli ideali e vivono per quegli ideali. Sì. Sberna è un francescano, sì. vive dello spirito francescano, portagli i sandali. D'inverno con la pioggia, cammina con i piedi scaldi. Ma lei non ci penserebbe nemmeno lontanamente, insomma. Io? Assolutamente no. Beh, certo. Assolutamente no. Vabbè, comunque lei non li punirebbe i clienti delle prostitute, diciamolo tutto. Assolutamente, perché? Devo essere sincero, sì. Cercherei di fare un poco di rieducazione. Rieducazione, quello sì, vabbè, quello sì. Si fa sempre. Vabbè, quello. Vecchio, la saluto, un abbraccio, a presto. A presto, grandissimo, ciao. Io non sono un'estimatrice proprio di Luciani, è un po' scostumata. Allora, perché entri dentro la zucca vuota che ogni tanto hai, perché in realtà non hai la zucca vuota, perché sei una persona che ragiona, dunque io non dico che hai la zucca vuota. Guarda che dico No, stai tranquillo, tu puoi dire quello che ti pare qua. Tutto. Tu puoi sempre dire quello che ti pare, perché entri nella tua zucca vuota, una volta per tutte, nella tua zucca momentaneamente vuota, assente per gli ultimi 20 minuti, dico che ti tutto. Sia No, ma tu puoi dire quello che ti pare, che sia chiaro, io ti ho detto che tu non... No, stai zitto. Adesso tu mi fai io non sto no, zitto. Marco, mi fai parlare, togliete l'audio, toglietela, per fortuna comando io. Allora, che ti sia chiaro nella tua zucca vuota negli ultimi 20 minuti, ti sia chiarissimo, che tu non troverai mai, non troverai mai, mai, in nessun sito, in nessun giornale, in nessuna diavoleria del genere, una mia frase che riguarda rapporti intimi con singole persone, non la troverai mai. Chiaro? Ti è chiara la differenza? Se non ti è chiara la differenza, peggio per te. Adesso andiamo avanti che già mi sono rotti i coglioni. Giacomo, provincia di Lucca. Sì, buonasera, grazie. Io volevo conoscere il viso di Parenzo, del dottor Parenzo. Cioè, io avrei tanta voglia di, io telefono dalla Toscana, avrei tanta voglia di venire a trovare per guardarlo in faccia e esprimermi il mio sentimento. Ma perché? Che ha fatto adesso Parenzo? Che ha fatto? Che ha fatto? No, niente, cioè io glielo vorrei dire così, di fronte, ciò che provo sentendo lui, o almeno, se non sono invitato, se mi può dire che c'è un po' di confusione sui programmi televisivi e capire cosa presenta lui, così lo inquadro. Ma qual è il problema? Perché lo devi inquadrare? Scusa Giacomo, perché lo devi inquadrare? Siccome sento molte cose, no? Durante la serata, di cui sì, ovviamente ho la mia vabbè, ma lo devi inquadrare, no? In che senso? Parlo con lui, sta qua amica, sì, amica. Ma infatti volevo parlare con lui, ma non voglio dire niente per telefono, cioè per radio. Volevo solamente capire il suo viso, da dove partono tutte quelle cose che dice, ecco, tutto qui. E così quando io lo sento, o anche lei lo conosco, perché almeno Parenzo, tu l'hai capito cosa vuole dire questo qua? No, ho capito, ma non è che la cosa mi andrò a dormire tranquillo lo stesso. Può andare, certo, può tranquillamente venire a Roma, si fa dare il mio numero dalla radio e ci vediamo una volta a Roma. Vabbè. Ecco, perfetto, così. Oppure se mi può anche dire in alternativa quale programma presenta. Lei può, ne ho fatti tanti, ma lei può tranquillamente ad esempio guardare Matrix questa sera. Può altrimenti, sì, può vedere tutto e può fare quello che le pare, può cercare, può, se è dotato anche di un computer e di, come dire, dell'intelligenza. Sì, ma lei perché vuole riconoscere in faccia Parenzo? Che intenzioni ha? Il computer ce l'ho, poi hai detto anche se di intelligenza, non ho certo la sua, quindi probabilmente sono un misero scrittore che usa anche il computer, ahimè. Però cosa ha scritto lei di interessante? Che lo leggo, lo vado a comprare, il libro sicuro, cosa ha scritto? Mi dica, che mi appunto. Certo, se lei va a prendere, questo qui è il mio secondo nome, però se lei prende... Mi dica. Come dice? No, mi dica che mi sto scrivendo, davvero, non mica per scherzo, poi domani vado, adesso stasera no, perché sono chiuso, domani mattina vado in libreria, mi dica il nome. Sì, lei vada in libreria, allora, intanto il mio nome è Alice Fiore Pisapia, ok? Alice? Ma ragazzi, Alice, ma di che state Fiori parlando? Pisapia. Dai, su, forza. Fiori, aspetta che lo scrivo, Pisapia, sì. Pisapia come il sindaco di Milano, Alice, no? Alice Fiore Pisapia, lei vada Aligi Fiore Pisapia, sì, che? Le vada nelle librerie cattoliche, oppure vada online, e così conosce il mio pensiero su quello che scrive. Allora, Pisapia, ma non trovo un cazzo però, Aligi... Guardi, molto semplice, Aligi viene da D'Annunzio, Fiore e Pisapia... Aligi Fiore Pisapia. Sto digitando, guardi, no. Pisapia. Vabbè, vedi, dai, Paolo da Milano, vedi. Rotto le scatole, dai, Paolo da Milano, eccolo, vai. Eccolo qua, eccolo. Paolo, qua. Vai, Aligi Fiore Pisapia, bene. Paolo, ecco, Milano. Ha scritto dei libri? Sì. Paolo, dimmi, dai, forza. Santa Rita da Cascia. Pronto. Sì. Paolo, forza, ragazzi, dai, tutto, via. Vediamo se becchiamo il presidente Ferrero, il presidente della Sampdoria. Di solito risponde, eh. Buonasera presidente, come va? Sono Cruciani, Zanzara. Clean the Eastwood da radio. Ma presidente, perché c'ha questa voce così strascinata, questa voce così stanca? No, che io sto bene, non ci sarà problema, stia tranquillo, sto bene. Ma perché mi chiama Clean the Eastwood della radio? Che c'entra? Cruciani, le lancio un messaggio subliminale. Subliminale, sì. Comunque, subliminale, avrei bene, sì? In un film hard. Ma no, vabbè, ma questo è banale. Alla faccia su. Siffredi. Ah, vabbè, ma questo a che c'è? Freddy e via rotula e ci si fa il mouse. No, vabbè, va che c'entra adesso questo? Che c'entra Siffredi col film porno? Io vabbè, il film porno. Io faccio fa film. Ma no, ma lei non fa nemmeno film hard, presidente, dai, forza. Va bene. Vabbè, ma alla fine si è pentito di quell'esultanza dopo la vittoria del derby sotto la curva della Sampdoria, eccetera. Si è pentito o no? Questa è una domanda molto banale, mica sul prete. Ma che se genuano sta rosicando? Che c'entra genuano? Sono della Lazio io. Rosicando, No, assolutamente no. Ma io sono un uomo distintivo. No, ma distinto, c'ha ragione, distinto. Sono uno last minute. Sì, l'ho sentito, l'ha già detta, last minute, questo che dici. Vabbè, faccio quello che penso, sono passionale. Vabbè, però ci sono delle regole non scritte, non è che si fa queste, non è che si esulta in questo modo, dai. Non si esulta in questo modo, presidente. Ma ce l'ha con me, è andata via l'audio, non ho capito niente. No, voglio dire, ci sono certe regole nel calcio, no? Ha sentito pure che le ha detto Preziosi, ci sono certe regole nel calcio che bisogna osservare. Ma a me queste regole sì? Non mi frega niente. Vabbè, io ho capito. Fatto la terza elementare, Cruciani. Sì. Ho capito, che c'entra? Le regole stanno scritte, non ci capisco niente. Figuriamoci se non stanno scritte da nessuna parte. Senta, cresciuto del Gabaresu. Senta, ma dove arriverà questa Samp, secondo lei, presidente? Ecco, pure questa è banale. A me interessa stadio nuovo. Vabbè, d'accordo, ma dove arriverà questa Samp? Dove arriverà? Ma che stiamo al mercatino da banalità, non c'è trippa per gatto. Per gatti, in senso amicale. Senta, quando è che facciamo questa intervista? Ma la stiamo facendo, presidente. Ah, bravo, vi voglio bene. Tanto a me del vostro giornale non mi frega niente. Ma ho capito, non mi frega niente. Ma a parte che è la radio questa qua. Vabbè, presidente, mi sa che non è in serata stasera. C'ha la voce così distrutta. No, sembra, no, ma sembra che sembra che si è fatto una bottiglia di vodka. Ho fatto pure una bottiglia. E vabbè, ho capito, presidente. Vabbè, arrivederci, grazie. Ma che sta succedendo? Niente, arrivederci, grazie. E lei? Arrivederci. Allora, Paolo da Milano, dai Paolo. Vi voglio bene, parente Cruciani, buonasera. Ciao, ciao, dimmi. Vi voglio bene, ma questa sera c'è un però. Che è successo? È successo questo. Marione Adinolfi. Allora, vi voglio domandare, o avete dei debiti di riconoscenza con lui o avete dei debiti pecuniari? Perché se il vostro grande direttore, che ha definito la vostra trasmissione come realmente è, e cioè connotata alla trasgressione, sì, se voi trattate come opinion leader un testa di cazzo che dice realtà che ha detto lui, io sono sicuro che voi non pensate quello che lui ha detto. No, voi io non sono pensate. A parte sulla prostituzione minorile sono d'accordo, sulla questione dei gay e sulle altre cose mi sembra che abbiamo le idee ben chiare. Poi lei definisce testa di cazzo Adinolfi, vabbè, io non lo definisco una testa di cazzo, è uno che combatte con le sue idee e io sono contrario alle sue idee. Lei poi può definirlo testa di cazzo perché, come è noto, questo è un posto, com'è che è? Un fascia di trasgressione. Fascia di trasgressione. Vabbè, allora non ho capito. Fascia di trasgressione. E allora? No, ma scusate, è la Pascale e la moglie di Renzi? E vabbè, secondo lui è più, come dire, più degna, che com'è che ha detto nella scala dei valori viene prima la moglie di Renzi e poi l'altro. Io penso che se quelle cose, anziché averle dette lui, le avesse dette un qualsiasi ascoltatore, lo avreste ricoperto. Ma non è vero, ma non è vero. Va bene, grazie Paolo. Ciao, grazie, ciao, ciao. Ciao. Ciao. Devi sapere una cosa, che stanno tornando i forconi. Stanno tornando in grande stile i forconi. annunciano manifestazioni, cercano alleanze con forze politiche. Te lo ricordi, Forconi? Ma certo, vi ricordo questi qui che a dicembre sembravano sul punto di dover rivoluzionare l'Italia. Anche non arrestato, ma messo ai domiciliari. Vabbè, poi c'erano diversi Forconi, c'erano quelli della Sicilia, c'erano quelli del Veneto, c'era l'altro, come si chiama, Calvani, te lo ricordi, quello con i capelli lunghi, venne da noi spesso, grande come combattente. No. Ma gente anche simpatica, ma è un contatto. Allora, Mariano Ferro, buonasera. A voi. Come sta? Come sta? Dalla Sicilia, Mariano Ferro, leader dei Forconi. Sta bene? È la serata della Sicilia, prima vecchio. Perché? Vecchio, vabbè, sì, vecchio, un grandissimo. Sì. Senta, io non ho capito bene, ma voi state preparando qualche cosa di grosso in Sicilia là, per la questione delle aste giudiziarie? Siete incazzatissimi sulle aste giudiziarie? No, voglio deludere le parenze, non stiamo preparando un cazzo. Perché? È perché credo che non sia l'aria, perché non c'è l'aria, perché? No, non esiste l'aria della rivoluzione in Italia, perché tutto quello che accade oggi, guarda, ormai gli italiani si sono rotti le palle anche dei rivoluzionari, quindi figurati. Cioè non state preparando niente, nessuna rivoluzione, nessuna scena. Ma non rivoluzione, guarda, mi piacerebbe farla, ma il problema è che non ci sono gli italiani, quindi è inutile sforzarsi di dire agli italiani che qui la situazione è tragica. Ormai gli italiani ne hanno piene le palle davvero di questa situazione, però il problema è che non vuole muoversi nessuno, quindi evidentemente non muore di fame nessuno, non sta male nessuno, e quindi cioè gli italiani di creare qualcosa che gli italiani non vogliono. Ce ne faremo una ragione, guarda, adesso non è che però scusa oggi... evidentemente se gli italiani non ma si muovono, Parenzo, non me ne frega nulla se si vogliono fare una ragione o no, quello che penso è che vorrei fare qualcosa io per vedere di migliorare questa Italia. Beh, fai parlare un attimo Ferro, scusa non ho capito, Mariano, sei stanco perché gli italiani non si ribellano, questo è il punto? No, guarda, anche quella è una versione che ormai è passata di moda, perché è inutile disperarsi, bisogna chiedersi perché gli italiani non vogliono muoversi, ed evidentemente hanno qualche motivo per non volersi muovere, no? Però io penso a tutte quelle imprese, a quelle partite IVA, a tutto quello che succede nel mondo del lavoro che non è stipendiato, io credo che ci sia veramente grande motivo di muoversi. Questo purtroppo non c'è dubbio, perché Renzi, diciamo la verità, sulle partite IVA, sugli autonomi non ha fatto una mazza. No, non ha fatto una mazza. Renzi è un ottimo comunicatore, ma alla fine tutti i giorni se ne inventa una, prima la riforma del Senato, oggi poi l'articolo 18, poi c'è il TFR, tutti i giorni ne inventa una per spostare l'asse dell'attenzione da quello che può essere una realtà che probabilmente non riescono a muoversi. Guardiamo con grande attenzione alla Francia, perché io ho sentito anche Renzi oggi pomeriggio che ha detto una cosa che veramente mi lascia così un pochino, cioè? Nel momento in cui la Francia, che è un partner per quello che è stato l'Europa, importante, no? E il momento in cui la Francia dice che probabilmente se ne frega del PIL, del tetto, io credo che sarebbe stato il momento di cogliere la palla al balzo e dire io mi accordo con la Francia, vaffanculo alla Merkel. Il problema è che Renzi non l'ha fatto e dice che rispetterà il 3%, il che vuol dire che noi praticamente avremo a soffrire ancora per 2, 3 anni, 4 anni, forse 10 anni. Rocco Siffredi Super Hot parte 2, ieri alla Zanzara. I dottori, gli urologi mi stimano perché sono estremamente consumato, ho una marea di persone che mi riconoscono e tante donne anche lì durante questo convegno di medici mi dicevano: ma perché tutti questi dottori ti stimano così tanto? Io ho detto: tutti amici di intimità, tutti quanti si sono fatti le pippe sui film porno, inutile dirlo. L'articolo 18 nel porno non esiste. Dell'articolo 18 non esiste, o sbaglio? Assolutamente no, se non funziona ti attacchi al cazzo per davvero, non corre, però senso metaforico. Non mi hanno fatto l'assicurazione coi Lloyd's di Londra perché faccio un lavoro troppo usurante. qualche assicurazione, tra virgolette, qualche anno fa ho provato ad assicurarmi, ma hanno rifiutato, la Lloyd's di Londra. Ma te lo giuro, a Roma ho incontrato un rappresentante della Lloyd's di Londra, ma ha rifiutato. Volevo assicurarlo perché ho avuto più di una volta dentate, ragazze un po' fuori di testa che me l'hanno morso, due volte sono stato all'ospedale con morsi e punti sull'uccello. No, mi hanno detto purtroppo nel tuo lavoro è troppo difficile, sì, usurante, difficile capire poi le problematiche. E poi ragazzi, anzi donne all'ascolto, avete problemi di stitichezza? Avete problemi di stitichezza? Beh, una cura c'è, molto semplice d'altra parte. Io a parte che la svuoto per piacere e per necessità, però è venuto più volte, è venuto un professore sui miei set, una volta per fare studi sull'HIV, una volta sulla stitichezza. Cioè apparentemente le donne che fanno molto sesso anale non soffrono di stitichezza, quindi lo consiglio a tutte le donne che ci soffrono. Questa non è però, David, una grande idea, diciamo la verità, Insomma sì, non sai che dire, dice, insomma sì. Vabbè, con noi Mariano Ferro, Mariano Ferro, leader dei Forconi, dopo aver sentito questa sventagliata di Rocco Siffredi, ma penso che anche per lei, Ferro, che lei, insomma, che è un leader rivoluzionario in nuce, un leader rivoluzionario in pectore, insomma, Siffredi abbia rappresentato nella sua storia, nella sua vita qualcosa, o sbaglio? Ferro? Ferro? Che fine ha fatto Ferro? Sei glissato? Che ha fatto? Sei annato? Che ha fatto? Luca da Roma, dai! Sì, buonasera, tanto mi fa piacere. Ho divertito e ho... Luca, non si sente niente, alzi la voce per favore. Sono onorato di intervenire. Niente, non si capisce una mazza. Luca dalla Spezia, dai, Luca dalla Spezia. Sì, è svenuto il siciliano. No, sta qua il siciliano, non si preoccupi, sta qua. Ciao Cruciani, ciao. Dimmi. Piacerissimo. Comunque vi devo mettere tranquillizzarvi, a me il cancro alla prostata non mi verrà mai, perché due anni che sono disoccupato, sai quante me ne faccio di seghe, quindi sto tranquillo su quel senso. Vabbè, che c'entra, non è che solo perché è disoccupato si fa le seghe, scusi, No, perché ho tanto tempo libero, sono a casa e cosa vuoi fare? Soldi per andare in giro? Non ce n'è per la benzina. Vabbè, e poi? Tristezza. No, più che altro io però ho telefonato per dirti, caro Cruciani, che questa volta devo dare ragione a David. Su che cosa? Su Marchionne. Perché Marchionne non ha salvato un cazzo. Ma come non ha salvato? Ha salvato la Fiat. Prima ci pensava lo Stato. Nel passato ci pensava lo Stato. Quando è arrivato Marchionne, gli aiuti pubblici sono praticamente scomparsi. Soldi pubblici. No. Ha ringraziato tutti. Guarda. Allora, gli aiuti pubblici con Marchionne sono praticamente finiti, ci sono stati ancora, ma sono poi praticamente finiti. Marchionne ha salvato un'azienda che era finita, morta, Guarda, l'ha fatta diventare una multinazionale. Allora è un coglione Marchionne, allora avete ragione voi, è un coglione Marchionne. Furbone. Ma furbo, è uno che fa gli interessi della sua azienda, è chiaro che è quello, no? Che cos'è, un benefattore? È un benefattore. Mica è Madre Teresa di Calcutta. Comunque, ascolta. Cioè, in Italia si critica pure gente come Marchionne, che c'ha due coglioni così, due palle così, capito? Si critica pure gente come Marchionne, capito? Ma tu non fai un cazzo dalla mattina alla sera e critichi Marchionne, ma falla finita, dai, su. Vedrai, ci risentiremo tra qualche anno, vedrai che fine farà la Ferrari. Vedrai che fine farà. Ma che c'entra la Ferrari? Ma adesso è un'altra della tua previsione, quello. Vabbè. Luca, ti devo salutare, che è tornato siciliano. Va, ciao, ciao. Ciao. Ferro, perché non si ha, non vi ha, quanti voti hanno in Sicilia i Forconi, Ferro? Guarda, in Sicilia i Forconi hanno fatto un'avventura, io la chiamo quello, perché poi alla fine l'hanno fatta nel 2012 senza una lira. Se ti dico quanto abbiamo speso per quella campagna elettorale, solo perché non volevamo votare nessuno del sistema. Ma quanti voti avevamo? 33.000 voti. 33.000. quanti sì, voti vali in Sicilia tu? Mariano Ferri, Forconi, quanti no, voti no, più o so, meno? Non più me o ne meno. Frega nulla. No, no, guarda, non mi interessa valutarmi con i voti. Come mi no? Valutarci. No, sì, vabbè, ma non... Guarda, noi stiamo facendo una cosa che vorrei dire a Renzi, perché Renzi credo abbia sbagliato tutto, perché ha dato delle priorità. Noi vorremmo far capire a Renzi che le imprese dell'articolo 18 in questo momento non hanno che farsene, perché il problema è che qui sono sotto licenziamenti dappertutto perché chiudono. Però ti dico una cosa, Ferro, che cosa succede a Vittoria, che voi state facendo casino sui sulle questioni che riguardano le aste succede, giudiziarie? Scusa. Succede che il giorno 13 a Vittoria ci sarà una famiglia, oltre a quelle che, perché a Vittoria c'è un'asta giudiziaria ogni 100 abitanti, la Fonde e la Corte d'Appello di Catania, quindi figurati tu. Ora, il discorso è che a Vittoria il giorno 13 ci sarà uno sfratto esecutivo da parte dell'ufficiale giudiziario con i carabinieri al lato, perché dovranno buttare fuori di casa una famiglia composta da marito, moglie e un figlio disabile. Non gliene frega nulla, questa casa è stata venduta per 12.600 euro, una casa di 90 metri quadri. Ma perché erano falliti questi qua? Ma questi non sono riusciti a pagare il mutuo e praticamente la legge ora li ributta fuori casa, no? Dovrebbe. E voi che fate? Beh, e noi andremo là a difendere queste signori, perché... E se arriva la polizia, i carabinieri, che fate? Non ce ne frega nulla, guarda, possono anche arrestarci tutti. Vabbè. Senti una cosa, Ferro, ma al di là della questione delle aste giudiziarie che riguardano soprattutto le persone, i fallimenti o quelli che sono in difficoltà, eccetera... Una macelleria sociale indecente. È vero che ti ha cercato Salvini per fare un accordo in Sicilia? Guarda, abbiamo parlato con Salvini, poi dico che oltre a questo parlare non c'è più stato nulla, poi vedrà Salvini se vuole, se siamo interessanti per Salvini, voglio dire. Ma è vero o no che andiamo da Salvini col piattino in mano? Che vuol dire non andare da Salvini col piattino in mano? Ma non andiamo da Salvini perché noi andiamo avanti, stiamo facendo un'operazione che credo sia apprezzata da molti, perché ovviamente si rivolge alle imprese. Poi se Salvini pensa che noi possiamo essere una risorsa per loro, oppure ancora meglio, se Salvini è interessante anche per noi, perché è una cosa reciproca, cioè. Ma è vero io che ti sei visto con Berlusconi? No. Ma io ho notizie contrarie, che ti sei visto con Berlusconi. Guarda, non risulta a me questa cosa. Devo dirti che mi vedrei anche con Lucifero pur di portare avanti una modifica alla legge sulle esecuzioni immobiliari, che deve essere fatta al più presto. Perché qui quello che... Ma ti sei visto o no? Ci siamo visti con Renzi, vedi, guarda, mi dai l'occasione. Ci siamo visti con Renzi quando venne, dopo due giorni che fu nominato, venne da Tunisi. Quella volta chiedemmo a Renzi di muoversi su questo argomento. Devo dire non ha fatto nulla, perché abbia fatto una beata mazza, come e Grillo? E Grillo? Ma con Grillo abbiamo chiesto di parlare con Grillo prima del 9 dicembre. Ne sa qualcosa il gruppo parlamentare dell'ASL? No, ma Palermo. Grillo come lo vedi? Come lo vedi Grillo? Uno adesso fa questa... Guarda, Grillo farebbe meglio forse a ritirarsi, perché devo dire la verità. Sì, perché guarda, aveva dato un'aspettativa, anche a noi aveva dato un'aspettativa. E invece è sotto gli occhi di tutti, 3 milioni di voti è un primato, è un record perdere 3 milioni di voti nell'arco di 6 mesi, di un anno. Cioè ha buttato via i voti. Ha buttato via quello che era la speranza degli italiani, la rivoluzione verso il sistema. Ferro, i Forconi tornano, però per adesso si occupano di strade. Che c'è, Parenza, vuoi attaccare Ferro? Che c'è? Ma no, attaccare, ma torna, dove tornano? Tornano perché l'abbiamo chiamati noi, ma non è che nel paese la gente dice tornano i Forconi, ma di che parliamo? Ma hanno fatto una manifestazione una volta, erano 4 gatti, benissimo, hanno ragione di protestare, adesso non è che c'è il movimento, Parenzo, dei Forconi. Mi dai lo spazio per rispondere? Ma io rispetto, no? Ti sei arrabbiato e fai benissimo, no, alcune cose che dici sono anche ragionevoli, no. Ma non c'è nessun movimento dei Forconi, ci siete voi, non esiste. Parenzo, se mi dai lo spazio per risponderti, vai, rispondi, 30 secondi, vai. No, ma voglio dire a Parenzo, guarda, quando abbiamo fatto la squadra del 9 dicembre, purtroppo ci siamo mischiati con degli imbecilli, te lo dico molto chiaramente, perché abbiamo fatto una squadra di imbecilli. C'era chi voleva fare il grillo della situazione, che l'hai anche nominato poco fa, perché questi ancora una volta si fanno chiamare Forconi. Ti posso solo ricordare, Parenzo, solo una cosa, i Forconi insieme ad altri ovviamente, insieme ai trasportatori, ai pescatori in Sicilia, misero in moto, sai cosa sbagliarono i Forconi, caro Parenzo? Cosa? Quello di sedersi al tavolo per dire trattiamo quello che dobbiamo fare, dovevamo ricattare la classe dirigente e obbligarli a fare qualcosa, perché ma altrimenti come? Sarebbe scoppiata veramente la rivoluzione. Ricattarli come, scusa? Ricattarli dicendo, perché quello che c'era in Sicilia, nell'autostrada da Palermo a Catania, da Messina a Palermo, non c'era una macchina perché non c'era un litro di benzina, negli ospedali mancava l'ossigeno, ci siamo fermati. Cioè dovevate fare l'inferno, ormai tirare l'acceleratore fino in fondo e dire a questa classe dirigente andatevene a fare un culo oppure fateci quello che chiediamo. Vabbè, ciao Ferro, ciao. Dai ragazzi, dai, 2 minuti, 2 minuti, forza. Francesco Bergamo, vai Francesco. Ciao Cruciani, sei un mito, sei grandissimo. Poi la musica dei CDC sottofondo è una figata pazzesca. Come ti avevo già consigliato una volta, potresti fare il Zanzara Best il sabato, perché c'è gente come me che lavora e vorrebbe ascoltare il Best anche il sabato. Non dipende da me, vai, forza, che e volevi dire? A casa la sera. Comunque, Rocco Siffredi è un mito, è un grande eroe, un eroe per tutti noi. Io sono quello che ti aveva già chiamato quest'estate, che ti diceva che si guardava 10 minuti di porno la mattina mentre preparava la colazione alla moglie. Non me lo ricordo. Vuol dire che farsi una sega la mattina aiuta. Sì, può darsi. Come ti ho risposto io? Cazzo, abbiamo scopato fino alle 4 del mattino, no? E tu alle 7 ti svegli e ti fai ancora una sega. Beh, e ottimo, però. Questo è ottimo, Francesco, devo dire. È ottimo. Però è vero che se uno come te ha scopato fino alle 4 e mezza di mattina, alle 5 di mattina, e poi si alza la mattina alle 9 davanti alla moglie si fa una sega, una può anche no, dire. No, alle 7, perché io faccio il maniscalco di lavoro, quindi la mattina devo correre. Vabbè, ma uno può anche dire sei malato, amico mio, cioè fino alle 4 e mezza, 5 sei stato a fare sesso, a parte che non ci credo a questa cosa. Tu fai così. No, garantito, mia moglie impazzisce e difatti fa sempre la stronza e non me la dà, perché dice che non è giusto che mi faccia una sega la mattina dopo che state con lei. Bah, Parenzo, ci credi tu a questa cosa? Ma sono problemi, effettivamente. Ma ci credi al racconto di questo ascoltatore? E poi, anzi, per garantirti tutto questo, sì, mi piacerebbe sapere dove si può andare a fare i casting per Rocco Siffredi, perché oltre ad avere una bella mazza, mi piacerebbe come professione. Come? Non ho capito. Vorrei fare un casting con Rocco Siffredi. Vabbè, Francesco, adesso il casting con Rocco Siffredi, amico mio, utilizza la mail, mandagli una lettera, eccetera. Marco Savona, buonasera. Sì, buonasera, ciao Giuseppe. Vai, dimmi. Ti do la risposta che chiedevi prima. Della signora SL non ce ne frega un cazzo. Benissimo. Questa è la risposta. Vabbè, Giuseppe, Bari. Ciao Giuseppe. Vai, dimmi, parla a voce alta, forza. Giuseppe, ma Bertinotti non ce l'eravamo tolti dai coglioni noi? No, pare che ancora no, ancora no. Quando apre la bocca lo fa solo per dire stronzate. Mi ricollego solamente all'ultima cosa che hai detto adesso per quanto riguarda Marchionne. Con gente come Bertinotti in Italia fa bene Marchionne ad andarsene all'estero. Ah, ma è tutta la vita, ma certo, ma state scherzando, ma quelli che se ne vanno all'estero e pagano le tasse all'estero, Depardieu in Francia, se volete anche la Fiat in Italia, aziende che vanno all'estero, ma sono dei grandissimi, grandi, non sono persone che scappano, sono persone che vogliono lavorare senza la burocrazia, senza la gente da pagare se non fa un cazzo. Tasse anche per loro, capito? Ma chi l'ha detto che devono pagare per loro? Ma che dici? Di quelli che se ne vanno, c'è uno come Della Valle che invece rimane qui, investe qui e paga le tasse qui e fa funzionare pure le sue aziende. Sì, ma... non è così? Vabbè. È così? Vabbè. Non ha un'azienda che funziona? Viva Marchionne! Ci sentiamo domani 18:30, ciao. Siete noiosi, tu e Parenzo, ma non solo poi, siete anche scarsi, come giornalisti siete molto scarsi e non mi piacete per niente. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Quanto siete stupidi, siete proprio insopportabili. Radio 24, la passione si sente.